espressioni comuni originate dalla Bibbia. Non tutti sanno che la lingua italiana ha solo 1000 anni, come non tutti sanno che molte parole italiane, per una serie di circostanze storiche e culturali, sono state saccheggiate da vocaboli stranieri. Per esempio, le parole tafferuglio, bizzeffe, carciofo, stoccafisso, zero, provengono dall'arabo, come embargo, creanza, sussiego, premura, provengono dal spagnolo, mentre parole come carriera, libertino, parrucca, provengono dal francese, e tante altre dal greco, dal latino e altre lingue. Così pure non tutti sanno che molte espressioni e parole usate nel linguaggio comune provengono dalla Bibbia. Desidero prendere in esame alcune di queste e vederne la fonte storica per poterle meglio apprezzare. Quando si dice che una certa situazione o cosa è una manna, si vuole intendere che è abbondante o una benedizione. Questa parola deriva da una esperienza vissuta dal popolo di Israele, il quale si stava lamentando perché camminava nel deserto da un mese e non aveva da mangiare. L'Eterno, Dio, provvide il cibo dando, oltre la carne, anche una sostanza piovuta sulla terra, fine e tonda, minuta come la brina, Esodo 16 e 14, dal colore bianco con il gusto di schiacciate fatte col miele, Esodo 16 e 31. Questo avvenne per 40 anni tutti i giorni, all'infuori del sabato, Esodo 16 e Giosuè 5 e 12. Un cibo mai conosciuto dagli israeliti, i quali si chiesero che kos è, in ebraico, manhu. Da qui viene il termine manna. Se si vuole stare in armonia con la parola, dobbiamo dire che ogni giorno noi facciamo tesoro della manna, perché molte sono le cose delle quali usufruiamo ogni giorno, che ci vengono date direttamente da Dio, come il sole, la pioggia, il vento, il cibo non artefatto, come il miele e la frutta. Dobbiamo essere onesti, la vita è una vera manna. Quando una situazione è dolorosa noi diciamo che è un calvario, un termine molto allusivo a quello che Gesù ha sofferto sulla croce. Con una differenza di fondo, il giusto e perfetto Gesù ha sofferto per i peccati dell'umanità, mentre noi soffriamo a causa dei nostri altrui errori. A noi non resta che fare come uno dei due ladroni, il quale riconobbe in Gesù il Re dei Re, il Salvatore del mondo. Chi non lo riconosce come tale avrà un calvario eterno. A volte si parla di una sentenza salomonica, senza sapere a cosa ci si riferisce. L'espressione viene tratta da un episodio riguardante il re Salomone, il quale doveva giudicare tra due prostitute, due donne poco affidabili, le quali si contendevano la maternità di un bambino. Il re, ancora molto giovane, doveva decidere chi potesse essere la vera madre. Chiese una spada ordinando di tagliare il bambino in due pezzi e darlo alle madri contendenti. Ma la vera madre, per evitare la tragica fine al figlioletto, chiese che fosse affidato alla rivale. Salomone capì quale delle due donne fosse sincera e dispose affinché le fosse affidato il figlio. Questo evento dimostra che la sentenza salomonica non sempre rientra nei canoni morali della società, ma è certamente quella sentenza che onora e giustifica la verità. Quando Gesù, dopo la resurrezione finale, giudicherà tutti gli uomini, emetterà una sentenza salomonica, retribuendo ciascuno come merita. Una terribile sentenza salomonica attende chi non avrà i peccati perdonati. Un'altra espressione comune è di dire che si è stati gabbanti co testamento primo. I sinonimi di gabbati sono imbrogliati, ingannati, raggirati. Poiché la lingua italiana è nata 1000 anni fa, è evidente che chi ha coniato questo termine si è rifatto a qualche cosa, precisamente ad una storia biblica. Al tempo del condottiero Giosuè, mentre si procedeva alla conquista della terra promessa da Dio, sterminando ogni abitante di qualsiasi città in questo territorio, gli abitanti della città di Gabaon andarono dagli israeliti con otri vecchi, abiti e sandali consumati, dicendo di provenire da molto lontano, fuori dalla terra promessa. Gli israeliti ci credettero, ma solo 3 giorni dopo vennero a sapere che non era vero. Giosuè capitolo 9. Furono ingannati per bene, da qui il termine gabbato. L'errore degli israeliti fu di non consultare il loro Dio, da notare, non pregare ma consultare. Pregare è un atteggiamento che si compie in tutte le religioni, ma consultare significa indagare o esaminare. Stai indagando se quello che fai è veramente la volontà di Dio? Se ti sei gabbato in questa vita, pazienza, ma se ti sei gabbato da solo per le cose eterne, dopo non potrai rimediare. Conviene accertarsi. Un altro termine biblico, in genere religioso, è simonia, il commercio delle cose sacre. Questo termine prende il nome da Simon Mago, contemporaneo degli Apostoli, il quale esercitava l'arte magica, ma fu convertito al cristianesimo. La sua fede però era scarsa. Infatti, meravigliato dei miracoli compiuti dagli Apostoli Pietro e Giovanni, offrì del denaro in cambio dell'acquisto del potere soprannaturale agente in loro. Pietro rispose duramente a Simone, che aveva pensato di poter acquistare il dono di Dio con il denaro. Atti capitolo 8. Un episodio che deve fare riflettere tutti coloro che comprano con il denaro beni spirituali. Quante volte si sente dire che occorre la pazienza di Giobbe? Giobbe è stato un personaggio storico, al quale era molto ricco, ma improvvisamente si ritrovò povero e malato. Come se ciò non bastasse. Perse disgraziatamente i suoi 10 figli in un solo giorno, e la moglie gli era contraria, invitandolo a maledire Dio. Soffrì per un periodo di tempo in queste condizioni, poi Dio lo ristabilì restituendolo alla propria precedente condizione. Perciò, quando si dice che occorre avere la pazienza di Giobbe, è bene ricordare che le circostanze di sofferenza in genere non sono poi così gravi. La Bibbia ci riporta episodi di grave entità per dimostrare che è possibile superare vittoriosamente certe sofferenze con la pazienza e la perseveranza. Due virtù, sempre più rare in un mondo che si sta meccanizzando e sempre più velocizzando. Ho l'impressione che la pazienza di Giobbe occorra non solo nella sofferenza, ma pure nella semplice vita quotidiana. E, uso comune dire in certe circostanze, è Bibbia. Con questa affermazione si vuole intendere che quello che si sta dicendo è vero, sacrosanto. Questo perché la Bibbia è ritenuta parola di Dio e, come tale, è la verità. Con questa premessa, devo dire che secche è un'espressione non lecita. È proprio questa. Secche è una cosa non creduta dagli italiani, è che la Bibbia sia la verità. Pur sostenendone la veridicità, essi la rinnegano con i fatti. Se il cattolicesimo afferma che Gesù è morto per perdonare tutti i nostri peccati, perché insegna a chiedere perdono delle loro mancanze? Quando la Bibbia condanna il furto e l'adulterio, perché gli italiani non osservano tali comandamenti? Se la Bibbia condanna l'ira, perché gli italiani si adirano così facilmente, soprattutto coloro che dovrebbero essere di esempio? Perciò, quando si dice è Bibbia, si comprende meglio cosa vogliono dire gli italiani, che il loro comportamento rispecchia la loro reale opinione riguardo alla Bibbia, cioè niente più che un libro senza alcun valore. È possibile avere questo atteggiamento, ma non è saggio. Perché Gesù ha detto che chi disprezza le sue parole, cioè non le osserva, sarà da lui disprezzato davanti a Dio. Questa è Bibbia. Non spesso, ma di tanto in tanto si sente dire «me ne lavo le mani». Un'espressione per noi un poco strana, perché tutti ci laviamo le mani, perciò è interessante sapere l'origine di tale espressione. Come una sola persona ha detto il dado è tratto pure, è stata una sola persona a dire vile tu, uccidi un uomo morto, e sempre una sola persona ha detto io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E così dicendo si lavò la mani, Matteo 27:24. Un episodio, questo, raccontato nei Vangeli. Si tratta di Ponzio Pilato, quando consegnò Gesù nelle mani dei giudei per la crocifissione. Si rese conto della mancata colpevolezza dell'accusato, per questo si lavò le mani, come simbolo di estraneità alla faccenda. Quanta gente oggi si lava le mani in merito a Cristo? Non sono d'accordo, né contrari, ma non sanno che davanti alla persona di Gesù non esiste la neutralità. Chi non è con Cristo è contro. Cioè chi non prende una posizione favorevole nei suoi confronti. Quando tutti la pensano diversamente, non è suo amico. Un'altra parola usata soprattutto nelle brutte circostanze è apocalittico. Questa parola deriva dall'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse, il quale narra molti eventi futuri, che potremmo chiamare catastrofici. A parte il fatto che vari libri della Bibbia narrano molti eventi catastrofici, usare questo termine per cose molto spiacevoli non è indicato, perché il libro Apocalisse è stato scritto per far sapere al mondo intero che Gesù Cristo, cioè il bene e la verità, trionferà sul male e l'ingiustizia. Dice pure che chi ama l'ingiustizia sarà per sempre gettato in un luogo dove sarà tormentato giorno e notte. Questo è veramente apocalittico. Altra espressione usata di frequente è «e il periodo delle vacche grasse». Questa espressione è molto strana e se non se ne conosce la provenienza non se ne capisce la portata. Ci rifacciamo ancora ad un episodio del popolo di Israele dove i figli del patriarca Giacobbe vendono un loro fratello di nome Giuseppe ad una carovana di passaggio diretta in Egitto. Dopo varie vicissitudini, Giuseppe interpreta un sogno del faraone, consistente in 7 vacche grasse e 7 vacche magre. L'interpretazione fu che le 7 vacche grasse indicavano 7 anni di abbondanza, mentre le 7 vacche magre indicavano 7 anni di carestia. E così avvenne. Genesi capitolo 41. Questo episodio storico ha dato occasione a qualcuno di formulare l'espressione vacche grasse o vacche magre per indicare il benessere e la penuria. Un accostamento più che mai legittimo, ma la mia domanda è: perché usiamo certe espressioni bibliche quando si afferma che la Bibbia non è la verità? La risposta potrebbe essere perché fa parte del linguaggio ma non necessariamente si deve credere a ciò che si dice. È vero, ma non si ha il dubbio che questi fatti si siano veramente compiuti? Se così è, allora la Bibbia è storicamente attendibile e se è attendibile anche la resurrezione di Gesù è vera. E se è vera, chi crede in lui è passato dal periodo delle vacche magre a quello delle vacche grasse. Perché tutto coopera al suo bene. Vi è un'altra espressione nel nostro gergo, non usata molto di frequente se non di tanto in tanto in certe particolari circostanze. Quando uno pretende da un altro certe cose, per l'altro molto gravose, a volte risponde: «Che cosa vuoi che mi tolga gli occhi?» In verità, una simile risposta era molto più frequente quando ero un ragazzo, perché ora, con il progresso della medicina, molte cose sono possibili. Come cambiare addirittura un cuore o un arto. Ebbene, pochi sanno che tale espressione è vecchia di 2000 anni fa, pronunciata dall'Apostolo Paolo. Sembra che Paolo avesse una malattia agli occhi, svolgendo l'opera di divulgazione del Vangelo presso gli abitanti della regione della Galazia, questi gli mostrarono un amore molto generoso. Quando in seguito l'Apostolo scrisse loro una lettera per riprenderli riguardo al modo sbagliato di vivere, testimoniò che il loro amore era stato tale, al punto che, se fosse stato possibile, si sarebbero cavati gli occhi. Galati 4:15. Paolo fece un esempio assurdo ai suoi tempi per dimostrare che il loro amore era pronto a tutto. E noi? Abbiamo quell'amore richiesto da Gesù, capace di perdere la propria volontà per deporla ai piedi di Cristo? Siamo disposti a mettere al secondo posto gli affetti terreni, i beni che abbiamo accumulato, gli obiettivi che ci siamo prefissi per servire prima Gesù Cristo, quale nostro Signore e Salvatore? Dio lo voglia. Febbraio 2013. Ellero.